lo stesso, l'ho tolto da qui, l'ho messo dentro, sono fatto un po' di pulizia, là. Troppa roba c'era di nuovo, ma il lineare non ci faceva niente, l'ho tolto. Però adesso vuoi vedere quanti watt da questa radio, perché se da pochi watt l'aumento un po', capito? Non riesco a agattarlo, vabbè, dai, adesso lo cerco. Riprendi già, poi ti misuro il coso, devo prendere il metro. Fino a 15 Claudio devi guidare, dalla casa è dato per 15 watt. Sì, ma li avevo abbassati, però devo vedere esattamente quanti sono, capito? L'avevo abbassati proprio per fare, per provare se andava bene, solo una prova con l'amplificatore. Adesso ne ho tolto tutto, c'è l'antenna diretta, non c'è niente qua di amplificatori, c'è solo quello grande HF e basta, però è staccato, non è neanche acceso, capito? È staccato completamente, non c'è niente attaccato. Devo vedere un po', al limite lo metto al massimo della potenza, insomma, quello che dà. Se ne dà 8 lo metto a 15, chiaramente, lo tengo a 15 watt. Sì, ma ne dà anche di più di 15, solo che dopo i 15 viene sforzato le cose, come si chiama? I finali vengono sforzati, capito? No, lo metto a 14 e mezzo, modulati 15. Ti ricordi qual era il trimerino? VR? Devo andare a guardare, VR13 mi pare, ma non sono sicuro. Devo guardare anch'io, passavo tutto. Che tu ricordassi al volo, devo guardare anch'io, dai. Anto, riprendi che guardo dentro l'armadio se trovo sto benedetto rosmetro. Basta, vattimetro là. Capa, fai, non c'è problema. E quindi già. Aspetta che sto andando a guardare lì per la modulazione del vattimetro. Non ce l'avete più. Non te lo ricordi più, vero? Hola. Aspetta un attimo, già devo fare una cosa, al volo sto arrivando subito. Oh, già, ci sei? Sì, a tu. Già, vabbè, guardato là questo trimmer. Guarda il 13, come mi ricordavo. E allora ti ghisso, dai. Chiara. No, io ce l'ho a 9 watt, ce l'ho regolato a 9. Mi disegna a 9 watt, però a picchi di 12. Ah, l'hai regolato a picchi di 12? No, io l'ho regolato a 9, però mi dà picchi a 12. Addirittura. E questo bacino a 15 watt, dalla casa è regolata a 15 watt, io l'avevo abbassato, in caso devi attaccare qualcosa lo puoi attaccare. Fatto bene, ma di solito va bene a 747, va bene come si dice, un po' più basso. Ma io questo lo posso regolare sino a 5 in tutto. Va benissimo. Hai capito? Sino a 5 watt lo posso regolare, c'è il power. Sì, ho capito già. È buono. E tu già ce l'hai avuto il Galaxy, già lo sai come. Sì che lo so come. Cavagliato. Perché l'hai dato, cazzo, un apparecchio buono, che c'è di l'hai dato? È colpa mia, no? Non ti rabbia con me, perché non è colpa mia. No, non me la sto prendendo con te, è per carità. Non mi ricordo adesso. Quella che dovevano portare, invece poi non l'avevano portato. Aspetta, mandami un messaggio. Tutto a posto di quella cosa là. Sì, tutto a posto. Ah, meglio così. A chi se non lo conosco, cioè, mi si dispiacerebbe, io da giù bagandomi. Mi si direbbe le palline, scusami, io i soldi gliel'ho dati. E quindi, cioè, il servizio me lo deve fare. Vabbè, è giusto che sia così. Lo mettete già, ma regami la pizza e non me la reghi, ti arrabbiaci. Vabbè, e quello però un po' più importante è la pizza. Sì, guardatemini, un muazzo, di Norigherrione, no, ma ne fanno di quelle cose a me. Tu, una dimenticata può succedere, non è che Ferraro ma non è, preserverà l'esito di Abulito. Lo so, ma i chivi però di nano ne hai dato e quindi devono farlo per forza. È difficile che ci devi tingheggiare. Vabbè, interessante che sia tutto a posto. Sì, sì, mi ha chiamato e c'era giù, c'era. Oh. Capito? Ehi, è Claudio! No, non riesco a trovarlo. Niente a fare. Vabbè. Niente da fare. Deve essere giù, perché è dentro la scatola, capito? Che succede, Cla? Come che succede? No, per un attimo mi sembrava i picchi negativi. A me? No, faccio proprio. Sono... Lo Smith sta andando in positivo qua. Ah, ho visto. Dai, era una mia impressione, forse. È molto impressione. C'ha picchi da 9 a 15 watt e c'è fischio. Eh no, che la torre da fa. La torre da fa? Ah, tutto la dire alla radio, tu. No, non ho picchi negativi, no. Allora, aspetta un attimino. Aspetta un attimino. Fischia, Cla. Ecco, lo vedi con i tuoi occhi, lo vedrai. Qua è positivo. Tanto, controllate la radio da Giudizio. Non ha giù perché positivi, negativi. Qua, mi sto guardando con l'altra radio e lo smitter va in avanti. Cosa pensi che non mi autocontrollo? Già mi sto controllando io. E poi, vedo lo smitter che va in avanti, se no sarebbe andato indietro. Gianni, da te positivi, so. Mi pare proprio di sì. Mi sembra proprio di sì, tanto. No, lo fa solo quando fischi e basta. No, quando fischi c'ho picchi. C'ho segnale ancora più alto quando fischio io. Guarda, Gianni, guarda il segnale, guarda. Allora sì, da 9.30 su dopo il più del 9.30 quando fischi. Beh, è normale, siamo entrati fatti. È normale, no? Tanto. Poi ti sto dicendo, io ho i 2K accesi, ho messo sono 70enna, vedo che il segnale entra e va in avanti, quindi ho il DAC acceso, guarda, sul canale 10, non senti nessun fischio. Guarda, da Santiago 2 a Santiago 3. Tiglia. Ma questo che cosa ha detto? È un problema tuo lì. Non so cosa hai toccato, cosa hai fatto, non so. Ma io sto uscendo benissimo, non bene, alla grande, antenna diretta, tutto a posto. Eppure io, antenna diretta, mi qua, te li mando tutti e due a confronto. Cosa devi mandare a confronto? No, per fartelo vedere, per non dirti balle. Cosa devi far vedere? Ma stai dicendo così, a me cosa devi far vedere? Però io ti sto dicendo che sto andando in positivo perché già sto controllando io, non è che già mi controllo. Positivo anche qua. No, dubbi, non è un problema, già me ne accorgo io. Me ne accorgo. Antonio. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Ciao belli beh, sono entrato per un saluto e stavo ascoltando, sì, ho attenuato Claudio, sono positivi. Tanto, guarda, certi baracchini danno picchi negativi di loro, soprattutto quelli smitter a LED. Non parlo del tuo, ma parlo dei miei. Alcuni segnano il negativo anche se il negativo non c'è. È una caratteristica di alcuni smitter, tutto lì. Claudio già è in positivo, dai, di poco ma è in positivo. È un'ottima radio anche. Dai, vi saluto tutti che sto stampando roba. Sono uscito? Sì che sei uscito. E ho salutato tutti e ho detto che devo stampare roba, devo mettere a posto un po' di documentazione, ok? Ciao, a dopo. Ok, non ti preoccupare. A dopo. L'ho visto, tanto l'ho visto, ma non so. Sul parlato è positivo, quando fischio va negativo, non so, ti manderà in tilt il ricevitore della radio, non lo so, non c'è problema, non sto sempre fischiando, io parlo, non fischio. Cappa, no, vabbè, io ho visto così, dai, non è un problema. Infatti non è un problema, già va bene, K. No, si dice, una cosa così, sicuramente, da. Sarà sicuramente così per te, cosa vuol dire? Non proprio. Da baracchini a baracchini vuol dire che cambia, cosa vuol dire? Volevo farmi questo lavoro dei fatti, invece non ha giovane a salire su. C'ho quel pigiama, c'è freddo, non li ho potuti. Cappa. Quando non hai canazzi. Sicuramente alla fine che assumi. Sì, sicuramente su, non c'è problema. Ma domani mattina, domani è lunedì, adesso ci sto guardando la TV, sono qua, non ha giovane. Messo tutto a posto, sono stanco. Le palle, adesso non tolgo più niente. Sì, alimentatori c'erano. 2 a 24, 2 a 12, 2 di scorta, ho messo dentro gli armadi, staccato tutto, via, fuori dalle balle. Già va bene, il baracchino è buono. I foramari, a canta alimentatori viso Trento. Sì, ne avevo. 2 a 24 volts, uno per l'amplificatore, l'altro per il sommergibile, poi uno solo per i baracchini, l'altro per gli HF, si è rotto le barre, ho lasciato i due Proxel e Diamond e basta, gli altri tutti via, fuori dalle balle. Va tu e ce li avevo tutti perché stavo mettendo a posto, te l'ho detto, non ho fatto nuovamente la base nuova. E quindi avevo tutti torti fuori per provarli, per fare, poi li ho lasciati tutti lì all'angolo, perché c'è un basamento, una base dove ci sono solo gli alimentatori. Però ho visto che stava diventando già troppo disordinato, troppa roba in mezzo ai piedi, quindi ho detto io via. Non ci guardo tutto, quindi solo baracchino con i vatti su, e adesso però lo devo mettere alla potenza sua perché l'avevo abbassato, lo devo riaprire e mettere la potenza sua, capito? E poi basta, piene ne avanza, guarda il segnale, tu si abbassa chiudendo i vatti, così ha tutto aperto i vatti e così sono tutti chiusi, abbassa. Sì, abbassa sì. E io lo devo bene, così lo rimettiamo al massimo, però devo vedere quanti sono. Gianni, ma lo strumento del Galaxy è praticamente un po' affidabile, lo strumento che c'ha sopra la scala M, dei watt SSB, affidabile. Sì, sì, questo va benissimo, è preciso identico anche quello delle stazionali, è preciso identico all'strumento che c'è esterno. Oh, vabbè, però io questa non la conosco la radio, quindi mi fido appunto di questo, io la regolazione l'ho fatta sempre con questo, capito? La regolazione l'ho fatta sempre con questo, ma adesso glieli do, mi sa che lo apro. Ho il labbro, lo metto sopra il DAC, glielo regolo, dai. Io regolo un po', VR13, è così, lo metto a 15 watt, dai, qui siamo, se tu mi dici che è regolare, al limite se non è regolare, lo misurerò dopo. Sì, a 15, qua puoi andare, 15 la casa, me la va per 15 watt in AM e 21 in banda laterale. Sì, sì, sì, sì. Che però quello dell'SSB è diverso, è il VR14 mi sembra. Non me lo ricordo, te l'ho dato io, ma le segnate. Sì, sì, sì, ce l'ho dentro il telefonino. No, sto dicendo, appunto è diverso il trimmer, non è uguale. È diverso. Uno è per la M, AMFM fa, e l'altro SSB. Ok, dai, adesso l'apro e lo aumento. E allora poi vediamo come va. Se la radio non si distorce, va bene, lo lasci così. No, non distorce la radio, cosa distorce? Cosa deve distorcere? Mica lo porto al massimo il trimmer. No, adesso è 8 watt modulati 12. Lo porto a 12 watt modulati 15, no? Può mettere anche a 15. Può 14 qualcosa. Poi ti dà modulato da 15. Solo che c'ha la scala, non è sino a 15, è sino a 10, capito? Esatto, sì. Ci vuole un battito per 3 stelle, c'è poco da fare. Sino a 10 la scala, quindi se fosse stato sino a 15, perché guarda la scala dell'SSB, c'è scritto 20, e quindi a 20 va, no, lo metti a 20 watt, qua c'è scritto 10, quindi se poi vai sul rosso vuol dire che sei fuori scala, se andiamo a rispettare lo strumento, capito? Cerca il vatometro esterno, lo colleghi un attimino. Devo salire su, dai, vado, metto un attimino le scarpe e salgo su, dai, vado a prendere lo strumento, così lo faccio bene, se no così no, non va bene, perché c'è la scala sino a 10, o lo metto a 10 watt, o se no ci vuole il rosmetro. Conviene fare così, conviene. E così facciamo, dai, riprendi con Gianni, già sono qua, e salgo un attimo su. Cappa, vai, vai. Capo, il mio Intac funziona che è una meraviglia, ce l'ho tanti anni, ce l'ho. Oh, segna bene le stazionarie, Sono giusto che vecchiotto. Quale Intac è? 550. No, l'Intac è Rosmetro, piccolino. Ma funziona che è una meraviglia. Ah, ce l'ho anche io, uno, il 102 della ZG che va benissimo. Lo uso per le stazionarie in macchina, eccetera. Io ho quell'intec piccolino, ho. Insomma, te le misura ma bene però me. Diciamo che già sono affidabili. Non sono come i professionali, già sono affidabili anche quelli, forfettariamente vanno bene. Guarda, io ho rosmetrato l'antenna con questo. È venuto un amico mio, me li ha misurati col suo strumento professionale. Era perfette, lo sai cosa vuol dire perfette? È meglio così, Arturo, se non ti dà problemi. È solo che quando piove quell'antenna c'è quel difettuccio che si illumidisce e servono le stazionali. Cappa, ma mica tanto alla fin fine. Cosa azzane, da 1.1 passano a 1.3 stazionari e giochisci. Sino a 1.5 sono accettati. E perché non va bene? Già va bene, adesso per dire quanto c'ha di stazionari, che ha più. Ma zero, c'è 1.1 saprò, così 1.2. Ma le stai misurando? Sì. Già attacco lo strumento, già. Ma io ce l'ho sempre fisso, sempre attaccato il mio strumento. Io accendo e vedo quanto c'ho di stazionare, 1.1. Proprio perfetto. Ma così muovi, Cappa, adesso ho ascoltato un messaggio che mi hanno mandato, 2 secondi. E vado bene così, dai. Mi approfitto per vedere che c'ho sempre. Ehi, Gianni, ehi già, ci sei? Quanto? Ci sentiamo dopo che devo uscire, dai. Apri, guardi, ci sei. Ehi, ok, già, non c'è problema. E sono a comprendere a Marco, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao, ci sentiamo, ciao. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Anto. Chi è? Sempre io sono, tolto il VIP. Guarda a vedere adesso. Allora, così è il passaggio a 0. E così è il passaggio a 10 watt. Allora sì, cazzo, se ce ne pongono, che pongono i più citti, mi pare che sei da 9.20 a più di 9.30. No, ascolta, adesso tu guarda il segnale, poco fa quant'era il segnale, adesso ho tirato sui watt di 5 watt in più, è cambiato qualcosa o è sempre uguale? 9.25 sì. Mentre prima era 9.20? Di meno di 9.20 con tutti i fatti chiusi. Ok, va bene. Lo lasciamo così allora, non lo tocco più. poi c'era un'altra cosa dovevo toccare che mi aveva detto Massimiliano, non mi ricordo se era le CIO, cosa cacchio era, il mic, la modulazione, ma non la tocco già, va bene? Va bene, sì. No, no, lasciamo tutto così, dai. Ottimo per la truppa. Capa. Va bene, dai, la chiudo allora, lascio stare tutto così. La radio è sempre buona? Sì, no, già va bene la radio qua. Vediamo se il bip c'è. Bip! Il bip c'è, va bene, dai. Allora la chiudiamo, a dopo, ciao. Ok, vai fare. Deve già scalare il bip, bip, non mi perioro. E vabbè, fortunatamente si può togliere questo baracchino, sennò non mi piace molto. Lo lascio per far vedere che sto usando un baracchino, dai. Capito. Tutto qua. Va bene, dai, aspetta che la chiudo. Ci vuole più a dirle le cose che a farle. Ma non è facilissima sta radio da regolare. Scappa, chiudila, ti va bene così, chiudila. La chiudo, sì. Guarda, ecco, un attimino devo scendere giù a fare una cosa, ci sentiamo dopo. Vai, vai, tanto già sono qua io, ciao, a dopo. Ehi. Contra la radio. Hola, hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, K. Sì, va bene. Da molto c'ha la riferma. Addirittura. Ehi, capo, ma non lasciare così ferme perché non va bene. Andiamo a andare, mucata. Vabbè, Luca. Certo. Vabbè, andiamo a andare. Ebbene, altro fu il risotto per i fiori. Sì, sì, l'aveva portati. E no, perché se non l'aveva portati mi incazzavo. Ah, ok. Mi sembra anche giusto, eh. Ebbè, certo. Ti raggio pure bagatti. Ebbè, il cimitero era chiuso. Era chiuso il cimitero. Non c'era i fiori, tutti chiusi. Ma sei sceso giù? Ciao, siamo bravi. Che bello, vedi qua la vita mia che era. Che bello. Vabbè, Lu. Come sei, fra? Sì, una bomba, sì, fra. Una bomba, perfetta. Tutto positivo, mio fratello, si dice, ok, si dice, ma mi sei piega. Oh, guarda, qua, sei 40, sei 40. Ma sei 80, bello, bello. Sì, se c'è portante, fra, se sta a parlare, un rumore. La ventola, Ah, positivo, la gara, a me si sente. Se io l'ho offerto, cosa gli fai? Si brucia. Ma che alimentatore è? Quello che hai comprato ultimamente? Io ho detto, fra, se sono con la vento si brucia. Ti stavo dicendo che alimentatore è? Ma non è quello che hai comprato tu. Capo, no, aspetta, tu ne hai preso, è l'ultimo che hai comprato, eh. Non va bene. Ti fai il cavo più lungo e lo metti lontano. E hai risolto di mezzo agnone. Luca. Sì. Ola. Avanti, chi è? Chi è Ola? Vuol dire che doveva lavare la lavatrice. Ma Claudio, buonasera. Ciao, Fra, buonasera, ben ascoltato. Dove sei? Se volete sì, Ola. Non abbiamo Ola qua, abbiamo Dixan. Gangur, vabbè. Sempre bruciando tu, ora sei bruciando, che non ti bruci io. No, a che mi sa che ha bisogno di una cosa. Vaffanculo. Ecco, lì va un po' meglio. Tanto fiago di ketchup intendo. Come ti fiago di ketchup? Ora faccio un fiago dello ketchup. Ma io ti devo fare il 2, io ti devo fare il seguito di ketchup, poi sono i soppure. Ciucucu. Ciucucu, buonasera. Buonasera, salutoni. Allora. Salute Trigo. Qui, ciao, Frank, e te. Tucca e boh, chi c'è degli altri, non lo so. C'è anche Franco, c'è. Franco, quindi è Franco? Franco California, beh. Franco, vieni avanti. Ma se sono io. Ma tu non lo senti, a pomponio. Ma dove in caverna è? Fra, io sto usando il Galaxy con 10 watt, ma non è che sto usando chissà che cosa. Sarà questione di posizione, non lo so. No, verrà 10-5. Va bene. Alla grande, non c'è problema. La mia bene fa, col tanne più 3. Va 25 qua, sto arrivando. Sì, già è giusto, già è giusto. Anche tu stai arrivando bene, non problema. Quindi molto poco, non arrivi da Franco, non c'è il sesso. No, non devo stazionare io, lui arriva a Santiago 2, quindi figurati tu l'ascolti 9, c'è qualcosa che non va da lui, non da me. Aspetta, là c'è il dipolo, c'ha. Prova a tornare a mettere la portante. No, già è il tuo, signore, appena più basso, ma già è il tuo. Osso, a me mi arriva Santiago 9, Franco. Oh no, dipende da lui, non dipende da me, che ci mancherebbe. Mi cerco trovare 1-1 io, quindi figurati. Lui arriva a Santiago 2, giusto, tondo, deve essere che è il monte, perché lui solo quel segnale arriva lì, quando è in campagna arrivava 7-8, una cosa del genere. No, qua arrivate tutti forti. Vabbè, tu sei la posizione diversa, logico. Se sei a centro storico ascolti a tutti. Vabbè, io non uso. Io uso, come si dice, uso antenne, cioè la verticale, magari lui usa il dipolo, capito perché? Probabile, niente di strano. Perché poi stato in campagna arrivava più forte prima. Evidentemente adesso col dipolo, altro non so cosa dirti. Comunque, arrivare arriva, senti il segnale di due. Io sono con come 4000, quindi figurati tu, sono 15 watt, non sono 20 watt di quello che ti ho dato a Temmi. Se mi avevo ascoltato, minimo segnale 1 mi avrebbe ascoltato. E quello ne ha 20 di watt, già lo sai. Capa, no, non lo so. Beh, ti arrivo lì da te. A me, a voi, arrivi bene. Sì, andrà bene, dai. Il microfono ti ha creato problemi, no? Tutto a posto, non ronza né niente, tutto tranquillo. Sì, no, già funziona bene. Lo sto utilizzando. Allora sono contento. È stata una cazzata. Adesso devo cercare di fare un microfono amplificato da uno di quei microfoni che usano l'Aerospi. Adesso lo sai l'Aerospi che mi scappa la resa, quello che c'è di qua. Vado a comprare i microfoni, usano quelle aggeggi che usano la torre per le partite, hai capito? Quelli spiato è qualcosa trombetta, per chiamare, hai capito, il commesso o il cassiere. Ho capito, le vuoi una modifica tu? No, c'ho un microfono io, va 24 volts questo. È un microfono proprio del tipo quello, similare a quello dello Spin. Si chiama ETG HP800. Monta due pulsantini Alt e Kelt, in pratica quando schiacci fai bing long, capito? E poi parli. Lo so, ma è cosa di se vendere un microfono al supermercato? No, circuito ce l'ho, l'ho conservato, ma mica mi uso qui circuito via per la macchina, che faccio gringo, break, e tu mi chiamate break. Dai, vedi, ma non ridiamo poi. Mettilo, Antonio, così quando fai ding dong, io dico, sì, avanti, salumeria, qui. Sono davvero mini crown, non sto scherzando. Ti mando una foto di quel microfono, ce l'ho davvero. Ne ho staccato 5 tiro là sotto l'altro giorno. Va 24 volte, ma è bello quello. Quindi, cioè, non, tutto va bene se può fare. Se funziona per la 27. Non vorrei che il 24 volte andasse alla baracchina e mi si incendiasse tutto. Perché non è mettato la 24 volte, ce l'ho, piccolino. Però non mi sono fidato, ho preso, ho staccato il circuito, adesso vedo di fargli la modifica e gli metto la portante e poi gli passo i due fili, metto un microfono amplificato di quelli palmari, adesso vediamo un po'. Al limite gli metto la regolazione dietro con potenziometro tondo, quello del modificato, là, ti fammi il microfono amplificato, mica è alto mica come cosa, come stanghetta, sembra la stanghetta delle, per farti la doccia. Sono quelli che usano quando, se stai attento, sono uguali a quelli che usano il consiglio comunale, no? Che sono attaccati ai tavoli e stanno sempre, quando parlano tu li vedi, stanno sempre giocando con questo cazzo di microfono, tipo quelli sono. No, quello del coso è molto più fine di coso, invece la sicella che c'ha è un pochettino più larga, ma bella a me. L'attacco della capsula è bello. E che non c'ho il numero tuo WhatsApp, se non ti avrei mandato la fotografia di quel microfono lì, la verità. Io mi Gigi mi ha dato un M600 da tavolo, è un po' messo male, adesso l'ho tutto smontato, devo verniciarlo, anche il flessibile, lo faccio cromato, già ho preso la bomboletta quella cromata, l'ho messo a posto, però ha funzionato, c'è anche il connettore, domani prendo la batteria e provo se va bene, se esce, quello con l'eco, tu ricordi quello da tavolo, flessibile là, tipo l'MC80, così. Eccolo già, è bella, buia. Questo c'ha il tubo flessibile, il tubo della delta, figurati. E vabbè, provalo e poi vediamo, dai, riprendi a tu. Pure aveva voluto intendere un che c'ha cosa a te. Io ti faccio la foto dopo, Antonio, e te lo faccio vedere il microfono. Ti faccio la foto e te lo faccio vedere, eh? Prova, Franco, ci sei? È quello tutto nero, tu. C'ha il basamento nero, il gambo nero, capito? Già sono bellini, se funzionano già sono bellini. Sono bellici. Nero al centro e grigio davanti e dietro. E c'è due pulsantini. Ciao. E già quello lì. Ma il BPC sì. Aggiù aveva acciappato un cassonetto, la verità, imbustato e tutto era, col suo cellophane. Cazzo, dimmi quale Mato Giovanni a cui gli metta ciò, cazzo, voi sapete che nel cassonetto che tu è. Cazzo, c'è un capo che è lungo 5 metri, con spinta 5 pugni, figurati. Cosa succede, guarda? C'era quel periodo, già lo sai, che si trovava tutto sotto, mi manca un tubo il tubo adesso. Prima ci buttavano di tutto, microfoni, magari qualche persona aveva comprato qualche cinese, ha chiuso il negozio, ha preso tutto, poteva buttare anche l'amplificatore altro che c'era. Ma il BP mio c'è? Sì, che c'è. Sì, c'è, qua. Vabbè, perché non lo sento, talmente silenzioso. E vabbè, se ne trovava prima di roba. Anche televisori ci buttano che magari ci hanno cazzate, capito? Chi lo prende se lo mette a posto e lo fa funzionare. Vabbè. Dai, riprendete voi, io sono qua già che sto facendo cosa. Vi ascolto un attimo, poi riprendo. Capa, non c'è più Franco? Franco, ci sei? È strano che Antonio, Antonello ha fatto così, non lo so, qua arriva fortissimo. Sai come sta arrivando, bene? Sì, bene, bene. E allora, sicuramente il bussolo non è orientato verso la sua zona. Ci vogliono le verticali in 27, non dai va di polo, è sempre un po' così. Vabbè, a febbraio piazza l'antenna, piazzala, quella c'è la Mantova 5 nuovamente. Sì, Mantova 5, c'è il tubo, c'è un paio di giranti, tutta la casa. Questa volta no, non tocca la più però a me. Una volta che adesso è bene, non voglio farci la più, ma ci sono bene. La calata di questo, con 513. Appunto, non fare quella cavolata che avevi fatto. Sì, vabbè. Ecco io, Saluccio, che gli fa crescere. Caffa, vabbè. Gara, andare. Ma poi ci andava a Peppa, cosa farla così assai? Perché prima c'era un problema, quindi faceva più fuori, quindi dove si sta, dove si sta sollevando, allora fai così, sollevala, la metti alta, la lasci così, non addocchi più, e almeno 6 metri la lasciare via tu, almeno 6 metri. Scappa, se non ci sono problemi io lascio stare così, se ci sono problemi lascio di più, pensa. Se lascio di più sono convinto che arrivo molto più forte. Aspetta che provo a cambiare antenna a vedere come ti arrivo, guarda che segnale che cambia antenna. Eia, e magari cambia antenna e senti anche a Pomponio. Eia, lì. Sì, se cambia antenna sì, per forza, mi sembra strano, stimavo prima, non mi sento adesso. Io a quei di Poli sono sempre così, so. Ah, di per una finestra sì. Se è a casa al monte sì, lui non mi sente. Se è stato in campagna già mi sentiva, a Puglia. Quando lei già va prima. Papa, la mia non costa tanto e funziona bene. Ah, poi potevamo farsi anche una boomerang, due pezzi di bastone, mi. Anzi, due pezzi di bastone. C'è una canna fresca io. Si procurava la bobina da cosa, da Luca, della Troce, e poi usava la canna pesca che c'avevo io, non ci voleva molto, no? Così almeno la piazza nelle, come si chiama, lì nella terrazzina voglia cresce. Ah, tutti criticano. Allora la Ringo funziona bene. Vabbè, la Ringo la luna va bene lì al monte. Si mette la Ringo nel terrazzino, nella staffa del come si chiama, ne scende tutto in terra, ne scende, sta scherzando. Passa qua, il vicino di casa con la troncatrice, piano piano prende e tronca mezzo metro per e 5 metri 50, quindi sono due piani. Fa un piano per ciascuno con la troncatrice e rimane 2 metri. No, la mette sul tetto. E sul tetto è un casino da lui. È veramente un casino. Ha avuto già problemi per il tetto, quindi non penso che lo facciamo salire. No, deve piazzarla. Io me lo auguro che la facciamo piazzare. Scappa. Perché ti ho toccato adesso? Per quello metto la 5 ottavi della macchina, ce l'ha, la mette lì nel balcone e lui va tranquillo qua, c'è bisogno di altro, no? La 2 mi sembra 5 ottavi. Cappa, no vabbè, già la mette adesso, no ma la può mettere, vuole mettere la mantova a 5, capito, vuole mettere la mantova a 5. E non l'ha recuperata la mantova, quella di campagna. Eh sì, quella lì. Già una volta l'abbiamo piazzata, non sai il casino che ci ha preso a poco quel cazzo, trappavo le antenne a casa, sollevava sopra, stare sopra il tetto. Abbiamo fatto un casino, abbiamo fatto. Dove mettici le tegole, non me lo ricordare, guarda. Infatti gli ho detto, guarda, io soprattutto non ci salgo più di lì, a parte che non ci arrivo manco con la scaletta a salire in quella bottola. Poi nella bottola ci sono una volta che sei sopra la mansarda ci sono dei fusi, ci sono dei pezzi di travi di legno che quando ci passi sopra balli. E devi stare attento se ci scendi giù. Vai Pomponio. Ciao Natali. È un cocomane. E quel cocomane di Antonio mi. Bombolino Bomboletto. Oi, ciao Natali, buonasera. Ciao Antu. Hasta la vista. Ma cosa Natali? Ma cosa hasta la vista? Saluto messicano quello. Che va? Oi, questo Pomponio che... Una scienza, è una scienza. Pompu, come mi stai sentendo con questo MB+4? 9.5, sei radio 5. Se stai uscendo con quello che ho io, va benissimo. Perché io a posto dell'MB+4 ho dovuto agganciarci il microfono appesticato, quello con l'eco, di M1000, l'unico che va bene. Sì, l'MB+4 sto usando, quello che avevo in scatola, quello lì. Normale, normale, funziona benissimo. La radio mi interessa sapere come sta uscendo. Oh, già va bene, è ottima, è perfetta. Guarda che io ce l'ho guardato tu, già non sai, ho fatto una cazzata di comprarmela anch'io, mi quell'apparato là. Pensavo che era una cosa come si deve, invece ho fatto l'inculata della spedizione, 24 euro. E costava mi sembra 60-70 euro l'apparato, l'ho pagato 98 mi sembra, se non mi ricordo male. Arriva qui con quel microfono normale, ragazzi, e lui cerca di pigliare l'apparecchio e fargli fare il volo alla finestra. Quando l'ho provato, tutti quanti, ma fai schifo di radio, non riesci, ho detto, ma sei sicuro? Sì, ascolta, tanto ascoltati, cazzo, prendo un coso, un apparecchio, mi metto le cuffie, cazzo, sembrava dentro un coso, un covo di galline sembrava. La storia deve cambiare. Allora ho preso, avevo comprato l'MB4 dietro dei conti e l'ho datata a quel banchino lì, e poi l'avevi pigliato tu. E dopodiché mi ho preso quello del Saturnecco che mi ha dato Antonio Bombolo e gli ho messo quello. Quello è l'unico microfono che esce bene, l'unico, non ce n'è nessun altro. O il M300 o il DB1000. Fatemi più 4, sono gli unici che vanno bene. E io me l'ho messo in macchina, quello lì me l'ho piazzato. Quando esco me lo porto, lo metto in macchina e via. Non ne sto usando più, c'ho il 3009 omologato, capito? Sì, va bene lo stesso 3009, ce l'ho anch'io, vabbè. 3009 io uno ne ho. C'ho il Corvette 4000, il 3009. Poi l'anno 87 c'era Antonio, secondo lui, mi è rimasto l'omologato, mi è rimasto quello che c'è tu uguale, e l'FM500S. Poi tutti gli altri fuori dalla barriera, i baracchini, tranne che lo Iaeso dalla parte, l'uno 57D, quello è scatolato, poi è a posto. Non è che c'è qualcuno a un Turner più treno per il Superstar? No, di quelli non lo so, devi controllare su internet se qualcuno, ma devi avere anche il culo, mi. C'era una specie di G32 tipo tanti più 3 per mare, che stavano andando 40 euro. Poi 4 giorni fa c'erano 4 baracchini, 40 euro non funzionanti, ma ce la faccio a prendere questi apparati qua per dire per 40 euro, me li faccio arrivare e poi ci manca tutto dentro, cazzo, allora già l'ho fatto l'affare. Sì, cazzo. No, a me per il 3009 mi serviva, un Turner più 3B stavo cercando. Guarda, se ti trovi il Salotto è meglio, lascia perdere il Turner più 3B, per il 3009 l'unico microfono che va bene è il Salotto, non ce n'è altro che va di bene, e spegne anche poco, un Salotto di quella seconda volta, trovi quanti ne vuoi, guarda, di quindi. E dove lo trovo? Dove li trovi? Da qualche CB li trovi? Vado a chiedere su eBay un microfono Salelta di quelli. C'è gente a Sassari che ce l'ha Salelta e non lo sta neanche usando. Devi andare a fare un giro di CB e chiedere ciò che gli è rimasto, se no. Il migliore, Natali. Buonasera! Buonasera! E all'ombra, vendeci Salelta, Master Blues! Ehi, secondo me quello e l'altro, basta che funzioni. No, sto scherzando. Io mi ero ordinato, ho fatto un affare sui mi sono ordinato un Turner. E 40 euro l'ho pagato. Speriamo che sia con la capsula, che non sia assente. Speriamo che l'ho fatto come l'ho fatto io. Ho preso su internet quelle monoculare, 56 euro l'offerta perché non so quanto costava, cazzo, l'ho fatta arrivare e non seguivo un tubo, sono andato da Muraglia ieri, l'ho pagato 13 euro e 60 centesimi. E io quasi tutto mi sono tirato da se non va bene la roba la puoi cambiare. Non mi fido più di internet, no, facevare più un accidente, né di microfono, nulla. fatto più che inculate non ci sono, lascia perdere. Quindi a un certo punto sarà per in Napoli, se lo trovo qua a Sassari, mi serve qualche cosa, me la cerco qua a Sassari. Sei solito già? No, ci sono, mi hanno mandato un messaggio e sto rispondendo a lei, scusami. Un attimino so. Ah, ok. Ti ho detto, io ho avuto quella incapezzata. Ho preso questo binocolo, già lo sai, anche tu che lo costano 56, 7 euro d'offerta, no, 56. Che fa tutto, eccetera, eccetera, c'è il telefonino per fare le fotografie. Lo prendo, arriva qua a casa e... Cazzo, io lo vedo un cazzo. Tutto strano, ho detto. Il telefono non mi rispondeva più su WhatsApp. Allora io gli ho detto, questo me la boccia in culo. Allora io ho chiesto l'aggancio per il telefonino che mi interessava. E ieri, andando alla muraglia, ho trovato lo stesso identico pezzo, preciso, dai cinesi, preciso, 60 centesimi, compreso il treppiedi. Ma perché non parli bene, anziché che dire parolacce? Guarda che te capiamo lo stesso, se parli bene, pulito. Vabbè, incappettato sono stato incappettato, cosa devi fare tu? Parlo su internet, scusa. Cosa fai? Non bestemmi. No, assolutamente no. Non è il caso, non è necessario. Vabbè, scusa, cazzo. Ha ragione Giulio, parla più educato. Cazzettina, stai entrando nelle case degli altri, Antonetti, ha ragione. Vabbè. Ecco, io te l'appoggio. Vabbè, ci riusciamo a parlare un po' meglio, sarebbe meglio in radio. Pure io molte volte mi devo trattenere, anche se mi scappa. A scappare scappa quando uno deve fare la pipì, Anto. Come pipì? Ma hai detto, mi devo trattenere se mi scappa. Ah, scappare, può scappare la pipì, capito? Quando uno sta facendo la pipì allora dice mi scappa e devo andare. Però questa cosa sta diventando un po' troppo spesso succede, che debbano intervenire gli altri per dire, in generale parlo, come dobbiamo usare il linguaggio. Quindi bisogna stare attenti, come ha detto Giulio, come ha detto Natalino. C'è gente che ascolta e non va bene che usiamo queste parole. Un po' di contegno. Io non mi offendo, purtroppo l'incappettatura l'ho avuta io. Quindi è meglio non dire mai su internet, meglio lasciar perdere. No, vabbè, è capitato anche a me, no, ho detto, può scappare qualche cosettina, però ho detto, è meglio usare un linguaggio un pochettino, è capitato anche a me, capito? È meglio usare un attimino un linguaggio un pochettino più moderato, perché insomma, molte volte ci sono ragazzini, ci sono, coso, cioè non sta bene, mogli, le barolacci non andano bene, quello che volevo dire. Infatti così io ti ho risposto in base a quello che abbiamo detto, vabbè, bando alle ciance. Io sono qua che sto finendo questa cosettina, ciao anche a Giulia, buonasera, ben ascoltata. E ciao anche a Gianni, io più rubo, mi è rientrato, già l'ho fatta quella tarattura, però domani mattina, infatti l'ho lasciata aperta la radio, domani mattina uso un altro tipo di strumento un po' più professionale, così la faccio perfetta. Ma il barometro se è buono te lo fa preciso, io l'ho fatto col barometro e grazie a Dio va bene, non c'è problema. Ciao Giulio, buonasera, dai, sto rispondendo a un messaggio e entro subito. Saluto anch'io. Salutone Giulio, salutone. Poi c'è trovato il sistema di bip. Ieri si andava a casa un bip di coso, c'è un bip, un suono tipo toccai. Poi già cambiato il sistema. Infatti Antonio mi sembra più un toccai a me. Mi sembra il ciccalino di un toccai. E infatti mi è sembrato strano, perché ieri stavo ascoltando, e dal 10 addirittura a Occici di Sprate su un altro canale, ma molto distante, ha giocato Cialone, i decessi e gli altri, se non è impossibile sentire una cosa del genere. E senti, stai scendo col fischio, no, io fischio non le ho, sto uscendo bene, e mi diceva stato per 2 secondi, perché in pratica è sparito, era sul 10 in pratica questo qui, metterlo portante. Stavo ascoltando ieri sera, non sono neanche entrato. Mi sono fatto un giro dalla 10 al 20, mi sembra che eravate sul 20, ho notato questa storia qua. Qualcuno mentre niente ci ha comprato due quelli di toccai, moreno vecchio, tutto sgangherato magari, e c'ha armoniche e cose del genere, è logico che fanno un effetto del genere. Ho capito, ho capito. Ehi, vabbè, dai, sappiamo sempre i movimenti sono quelli, ma io non mi interessa. Non metto lingua perché poi sembra che sia sempre io che infierisco nel così da qua. Mi è arrivato un messaggio 9P50, arriva da in una zona, capito? Quindi so benissimo, è sempre lo stesso, e quel lavoro lì lo fa il Tokai 5024, e lui c'ha il Tokai 5024, anche pieno di baracchini mondezza. Va bene, dai, Antone, noi due già possiamo parlare, non c'è problema. Sì, un mezzo di baci a me, no. A me fa 9,50 la verità, non è qui vicino. È lontano da qua. Quindi facendo le triangolazioni, colpi io non le pigliavo, tu altrettanto, i colpi li pigliavano gli altri, quindi al centro. Il discorso è quello. Sì, tanto già lo so, dov'è, chi è, non ti preoccupare. Al monte alla Teloce arriva 9P50, quindi lascia perdere. Ma che continui a fare quello che vuole, non è che a me mi interessi più di tanto. A me già non mi disturba, non ce n'è problema. Vabbè, dai, Antonio, riprendi. Capa, originario mio va in questa zona. E vabbè, tu già lo passi, non è un problema. Giulio lo sento sotto, ma se aumenta già passa lo stesso. Gianni problemi non ne ha, quindi no, non vi preoccupate, lasciatelo fare, se non fa peggio. Tanto. Andiamo va, va. Tanto fatichi sono fatti altro. Io cazzo in gheggio già. Passisci. Se metti musica su 11 alfa guai, cazzo, mi ammazza. L'unico canale che sperate da tutti i 23 canali è l'11 alfa, se non dovesse mettere musica lì, oppure il microfono attaccato all'alimentatore sopra il trasformatore, siete morti. Ma poi l'11 alfa ce l'ha il Tokai, se ha il Tokai ce l'ha l'11 alfa, cosa ci andate a fare? Ve ne andate nei canali di sotto o di sopra e lui non vi segue più, perché c'ha 23 canali. Ah, sta bruciando tutto, è sceso da 9,20 a Santiago 9. Speriamo, speriamo che bruci tutto, speriamo. Sì, da me sì, ma a me non mi senti, io sono con 10 watt. No, io già ti sento, cra. Elemento. È un elemento piccolino, capito? È un elemento molto piccolo, sia di età che di statura. Vedo Yoko. Uno che fa così, cosa può essere? Un elemento grande può essere. Un gabo di fumo di Diacheduno, quindi. Vabbè, dai, se ci sentiamo, ignoratelo, non c'è problema, sono io. chiudo tutto e vado a vedere la televisione. E infatti altrettanto faccio io, mentre mangio mi guardo la TV, dai. Ciao Antonio, Gianni, Natalino che è caduta la linea e tutti quelli che c'erano qua, dai, ciao. Marco. Nel tutto, a zero. Natali, avevo un punto importante.